Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, ok. Ci siamo, ci siamo. Buonasera a tutti. È tutto pronto. Buonasera a Chiara Guilo, buonasera a Lorenzo Petri e buonasera, buonasera a Rockway. Siamo a Rockway, siamo dal vivo praticamente stasera. Come ogni mercoledì ospitiamo un artista, stasera ospitiamo una cantautrice, posso chiamarti cantautrice? Sì, benissimo, cantautrice. Lorenzo è il chitarrista che la segue, un chitarrista elettrico, Lorenzo. Sì, elettrico. Elettrico, una bella Fender mi pare che tu abbia, no? Sì, sì. Fa molto piacere la Fender Stratocaster. Una Fender Custom. Una... Sì, tra l'altro è anche fatta, il manico è Fender, il resto è stata fatta fare. Insomma. Ah, hai fatto fare direttamente? Sì. Bene, interessante. Bene, questo è Rock Wave del mercoledì, quindi Rock Wave del mercoledì, come ogni mercoledì, in presenza di Maurizio Castavara alla conduzione del programma, con Michele Tosoni in regia, parleremo di Chiara Guilo e della musica di Chiara Guilo. Nome d'arte è Balloon Doll. Ti fai chiamare anche. Beh, Valium Doll è il nome di questo progetto. E questo di questo progetto. Da dove nasce il progetto Valium Doll? 2008 circa? Sì, si può dire che nasce anche prima, da quando un po' ho cominciato a suonare, perché hai cominciato a suonare nel 2008 praticamente. No, io suono da quando avevo 14. Sì, ma come progetto nasce nel 2008? Come progetto nasce nel 2008. Hai cominciato a suonare con un'altra band, con una band praticamente. Sì. Che si chiamavano? Che si chiamavano Blank Symbol. Cioè, si chiamavano perché ora non suoniamo più. Non esiste più. Da non molto, tra l'altro. Peccato. Abbiamo fatto un disco insieme. E insomma suonavamo in giro qui anche le province di Venezia, Treviso e Padova, abbiamo girato un po', quindi avevate un certo seguito praticamente. Sì, Lorenzo dice di sì, conferma. Lorenzo conferma che avevate un certo seguito. Musicalmente che musica era la vostra? Beh, erano musica hard rock fondamentalmente. Ah, hard rock fondamentalmente. Facevamo casino, rumore, insomma, praticamente casino. Però il progetto Valium Doll è tutto diverso dall'hard rock, assolutamente lontano dall'hard rock, secondo me. Sì, quella cosa che facevamo con le Blank Symbol erano delle canzoni che scrivevamo tutte quante insieme, ed era un mettere insieme proprio anche dei gusti diversi. Ho capito. Che eravamo tanto diversi anche come... Come concerto musicale. Come concerto musicale, anche come ascolti e tutto. Certo. E quindi, cioè, diventava una... Cioè, era il risultato di quattro diverse di quattro menti, che appunto, quattro menti, sì, esattamente. E poi comunque era un genere che andavamo fuori, suonavamo, era così per stare, cioè tipo quel concetto di andare fuori con la band, suonare, divertirsi, fare. Però avete fatto un disco nonostante tutto. Avete inciso un disco, quindi vuol dire che non era solo per il divertimento. Sì, ma quello che sto dicendo è che non era una faccenda incentrata tutta sull'introspezione, come può essere invece Valium Doll. Certo, capito. Quindi non era una questione cantautorale lì, era una questione più punk. Quindi fa un po' di, non dico di confusione, di rumore quello di, sì. Di, era una cosa appunto, sì, così. Quindi che ha approdato. Non so spiegare. Sì, ho capito, è chiaro, hai spiegato lo stesso. Sì. Per divertimento li trovavate, suonavate, eccetera, per divertimento. Quando è una persona sola che scrive i pezzi, allora magari ci mette del suo, certo. Lo trasmette così. Invece là, essendo in quattro, era un po' difficile. Era un po' difficile, però quattro menti diverse. Nascono degli impulsi diversi, che nel loro caso era quello proprio di uscire a suonare ed esibirsi, mentre qua magari è proprio di trasmettere delle cose interiori. Certamente. Attraverso i pezzi. Però sono arrivati anche a un disco, quindi sì, c'erano quattro menti diverse, però vi siete messi d'accordo per fare un disco, quindi è una cosa positiva. Dopo il progetto è naufragato, aveva un altro par di maniche, però l'idea c'era. Adesso passiamo al progetto Valium Doll, nato verso il 2008, diciamo, sì. Fine 2008, inizio 2009, con un primo EP che tu hai inciso. Sì, con il primo EP che ho inciso, che è uscito a luglio del 2008, che contiene sei pezzi. Sei pezzi, esatto, sì. E... Tutti molto scheletrici, sì, acustici, decisamente. Molto, molto semplici, chitarra e voce, pochissimi arrangiamenti, perché volevo che questo lavoro rimanesse così. Doveva essere così, praticamente, l'idea perché di partenza. Perché appunto l'idea... era di mantenere quello che Volume Doll come è nata in quel momento era, cioè io che venivo fuori dalla mia cameretta con la chitarra e suonavo. E Lorenzo Petri, Lorenzo che ruolo ha avuto in questo progetto? Lorenzo, praticamente io poi quando è uscito questo disco dovevo innanzitutto cioè, arrangiare dei pezzi, certo. Alcune cose che magari non riuscivo a fare, comunque una mente esterna poteva apportare delle cose in più e quindi arricchire il tutto. E quindi gli ho chiesto se voleva fare questa cosa. Lui ha accettato. L'ho buttata là perché non credevo che avrebbe accettato, invece ha accettato e siamo ancora qua. Tu facevi parte di una band o fai parte di una band? Sì. Allora, quando lei mi ha chiesto di fare così, era con un trio che si chiamava The Last Days of Disco. Sì. E io facevo la chitarra e basta. E adesso invece poi quel gruppo lì si è sciolto e adesso invece ha un duo con il batterista sempre di quel gruppo lì. Gruppo precedente. E adesso però siamo solo chitarra e batteria e io canto però anche. Ho capito. E siccome manca il basso, ci sono delle tecniche particolari per far sì che non si senta troppo la mancanza. Il basso. Esatto, che non si senta troppo la mancanza. Beh, la batteria dalla sezione ritmica, però il basso è fondamentale, allora sì. si cerca di trovare delle strategie. Esattamente, non è molto semplice. Quindi hai cominciato il progetto Volume Doll, Lorenzo ti ha dato una mano e hai costruito questi 6 pezzi praticamente. In questo EP, hai inciso in casa. È stato inciso in studio. Cioè, all'Hoffman Studio di Francesco Doro, sì. A Briana, e che appunto ci ha registrato. L'hai inciso là praticamente. Sì, esatto, nei mesi precedenti a luglio del 2008. Io ho letto le critiche di questo disco, nelle diverse critiche nei diversi siti, sono state critiche positive, assolutamente positive, e partono da Cat Power, qualcuno cita assolutamente i Velvet Underground, penso che siamo d'accordo con te, sì. E anche Lorenzo sarà d'accordo, i Velvet sono la base della musica di quel progetto. Assolutamente, scanna essenziale. Sì, sono stati in quel periodo lì, anche nel modo in cui mi sono posta, appunto, anche come effetti, come cose, che volevo che fosse una cosa un po' in questa dimensione. In questo alone un po' psichedelico. Certo, forse. Certamente. Anche qualcuno ha citato, io sono perfettamente d'accordo, i Mazistar e gli Opal. Mazistar e gli Opal, quel genere americano indie californiano psichedelico, parliamo di Rain Parade ancora prima, quindi decisamente interessante, e i Mazistar ci stanno benissimo, non c'è il violoncello qua, non c'è il violino, ma va bene lo stesso. Vero, hai ragione, vero Lorenzo? Però noi abbiamo uno stratagemma anche per quello, anche per Volume Doll. Visto che non c'è il violoncello. Il violoncello e la viola in Mazistar davano un certo senso di decadente, molto interessante. Sentirai poi sui pezzi che faremo dal vivo stasera. Mi fa molto piacere sapere questo. Un pezzo che è nel disco live che abbiamo messo a disposizione in free download poco tempo fa. Ah, bene. Mixing Up the Medicine si chiama. E l'abbiamo registrato all'altro quando, un concerto che abbiamo fatto lì. Sì, il disco è uscito da pochissimo tempo. Sì, abbiamo selezionato alcuni pezzi e abbiamo deciso di distribuirlo così, gratuitamente. Per chiunque volesse ascoltarlo soltanto, che è su Bandcamp, oppure anche scaricarlo, c'è anche una copertina che si può stampare. E quindi si può scaricare e sentire, chiaramente. Sentiamo allora, iniziamo la cavalcata nostra che durerà fino alle 24, avremo tempo di parlare con Chiara Guillo e anche con Lorenzo, di allargare il raggio d'azione musicale. Partiamo con il primo pezzo che noi abbiamo deciso in scaletta, ti ricordi che la traccia era? Disco da studio? Era Rare Dude. Sì, la traccia. Il numero 3, perfetto, adesso sentiamo e poi ne parliamo assieme, ok? I am sometimes too far. I am sometimes too far. And soon I've gone away from that freaky place. This spoke about my mistakes as loud as I heard. I am sometimes too far. I am sometimes too far. Sometimes too far. I am sometimes too far. I am sometimes too far. I am sometimes too far. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, no, Lorenzo diceva non è amplificatore rotto, era la coda del pezzo. Lorenzo, assolutamente, sì, sì. Era proprio la coda del pezzo. Come mai questa idea di questa coda? Secondo me interessante, perché la psichedelia vuole le code, secondo me. Cosa dite? Questa idea della coda è stata un'idea di Alberto De Grandis delle oliocombustioni paniche. Ok. Che... vai, Chiara, dimmi. No, dicevo che questa idea appunto è stata di Alberto, che aveva... questa canzone gli ispirava questa cosa qua, allora provate una chitarra processata praticamente. Chitarra processata, il suono viene fatto in questa maniera, vero Lorenzo? Sì. Cioè, in termini molto semplici per i nostri ascoltatori, chitarra processata che significa? Fatta passare attraverso dei processori di segnale che possono essere degli effetti o pedalini, oppure anche ultimamente adesso con i computer ci sono tutti vari plugin così. Servono per modificare il suono in poche parole. E infatti in quel caso si sentiva una specie di fruscio, non c'era una vera e propria nota o una melodia, era semplicemente del rumore modificato con dei processori. L'idea è venuta come? È venuta al fonico dello studio, ma anche è venuta a voi due o no? È solo a lui il fonico? No, è venuta ad Alberto, che non era il fonico, non era il fonico in questo momento, e che aveva ascoltato questi pezzi perché gli avevamo dato il CD. Se ti viene in mente qualcosa, non ho capito. Quindi ha collaborato anche lui praticamente. Ha collaborato anche lui in questo pezzo con questa cosa qua. E ci piaceva, quindi l'abbiamo tenuta. Decisamente interessante. Sempre nell'ambito della psichedelia, del discorso della musica indie, secondo me va benissimo, ci sta assolutamente. Sì, sì. Tra l'altro li ha fatti lui quei cose, non li ho fatti io. Ho capito. Bene, questo era il primo pezzo dell'album da studio, praticamente, dell'album del 2008. Adesso, visto che ci siamo, sono le 22:20, e come sempre, come a Rock Wave, è una cosa importante suonare. Con cosa cominciamo, ragazzi, stasera? Chiara, cosa iniziamo? Con cosa facciamo? Non so, seguiamo questa scaletta qua. Seguite la scaletta che avete predisposto, vabbè. Allora facciamo You Make Me Sad When I'm Near You. Perfetto. And everything was good before the year alone. Wasted time for sure, the lies you told in my mind. And while we lay down here, stare at my eyes, As the time goes by, you wait for me talking my mind. In my dreams I walked slowly everywhere. In my dreams you're apart from me and I don't care. You make me sad when I'm near you. You make me sad when I'm near you. You make me sad, but I need your words. I'm lost again. Everything goes wrong before a year alone. We could close the show, the lies are hiding in my eyes. And why we lay down here, and I'm gonna leave soon. The color of the moon, the blue you so deep in my eyes. In my dreams I walked slowly everywhere. In my dreams you're apart from me and I don't care. You make me sad when I'm near you. You make me sad when I'm near you. You make me sad, but I need your words. I'm lost again nowhere. In my dreams I walked slowly everywhere. In my dreams you're apart from me and I don't care. You make me sad when I'm near you. You make me sad when I'm near you. You make me sad, but I need your words. I'm lost again nowhere. You make me sad when I'm near you. You make me sad when I'm near you. You make me sad, but I need your words. I'm lost again nowhere. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Sono molto soddisfatto che mi ha proprio portato nei miei amori musicali, gli Opa, i Magistrale, In Parade, la psichedelia americana. Bellissimo, bellissimo, complimenti. Grazie. Il modo di arrangiare, volutamente fatto così, una critica ha scritto, adesso te lo leggo, tu lo saprai sicuramente, ma lo ripeto per noi, i nostri ascoltatori. Beh, dunque, quelle ascoltabili su questo EP sono canzoni scarne e cupe, ben poco commerciali, e gli schemi che si insinuano sugli scheletri chitarristici costruiti da Lorenzo Petri. Siete d'accordo? Cosa dici, Chiara, su questo? Chiara ha detto. No, il critico ha ragione, però. Lo scheletro chitarristica è giusto? Cioè, perché musicalmente è proprio scheletrico il pezzo. Sì, ma forse per il fatto che c'è lo scheletro, nel senso che la canzone nasce con la chitarra. Sì, certo, anche questo. Quindi, però, cioè, che poi rimane attorno a quello strumento. Sì, sono d'accordo con te. Però già il progetto così scheletrico, così essenziale, porta anche a questo, secondo me. Questo è il concetto di base. Se siete d'accordo, io la vedo così, la sento. Sì, poi se non sbaglio quella recensione è del primo. Sì, del primo, del primo. E quello comunque... esatto, le canzoni presenti in quel disco lì erano un po' più appunto scheletriche, io non ho fatto altro che inserire che... un po' di ritmo, diciamo, però fatto con la chitarra, perché sì, però hai dato mancano quella... anche le percussioni, quindi è giusto dire che si insinua soprattutto in un pezzo dove c'è la chitarra che fa sì, un controgiro, certo, certo, che si incastra nell'altra. Mentre questa che abbiamo appena suonato è un pezzo nuovo, che non è presente nel live. È leggermente diverso, eh? Anche a livello di pezzo, anche sì, come costruzione è diversa, ritornello, che... e quindi in questo caso la mia chitarra non è più che si insinua, cerca di valorizzare. Però parte sempre da quel progetto là, quello sì, questo è chiaro, volevo sì, intendere questo. È un'evoluzione di quel progetto. È un'evoluzione positiva, poi ci sarà un'evoluzione totale. Del disco del 2008. Diciamo. Poi ci sarà un'evoluzione totale, quando sembra tu hai un disco pronto però, o qualche pezzo pronto, un disco di inediti, cioè non dal vivo. Quello che ho letto da qualche parte, è vero oppure no questo? Dobbiamo farlo. Però l'idea c'è. Abbiamo in mente di farlo con appunto questi pezzi che non sono nel EP del 2008 che abbiamo proposto nel disco vivo. Live, che comunque noi adesso arrangiamo live, così fra un po' di tempo... Ci sarà anche un batterista con noi. Bene, quindi il gruppo si allarga. Non vogliamo anticipare troppo, perché ci saranno delle forse sorprese. Ci saranno delle novità. E quindi appunto alcuni di questi pezzi che abbiamo fatto live in questo disco sono un po', diciamo, una sorta di anteprima di quello che sarà praticamente il disco nuovo che faremo, che... su cui non dico altro perché non diciamo, ci fermiamo qua. In ogni caso il disco nuovo sarà un live, assolutamente registrato live o no? In studio direttamente? Sarà un disco registrato in studio. Sarà un disco in studio. In live ci saranno saranno i pezzi presenti nel live, però a posto di essere una formazione come siamo adesso in due allargata, ci saranno anche delle altre cose. Quindi ci sarà un cambiamento rispetto ai pezzi del live che avete presentato? Sì, sì, sicuramente. Ci sarà una impostazione diversa. Diciamo che saranno gli stessi pezzi, però riarrangiati e anche riproposti. Un po' più sostenuti, forse. Sì. Quindi c'è un'evoluzione come il tuo. Sì. Cercando di dare un carattere ad ogni pezzo per valorizzarlo di più. Bene, ho capito. Altrimenti vengono tutti insomma. Sì, però la scheletricità non è mica fatto negativo, è un fatto positivo secondo me. Chiaramente c'è evoluzione. Sì, la scheletricità in senso di proposta rimarrà, in quanto comunque sono cose molto semplici. Sì, esattamente. Non andiamo a fare, a snaturare il tutto facendo chissà che cosa. Però da 2 a 4 è già positivo, sono da 2 a 3 sicuri e poi forse un quarto. Sì, quindi... cioè, la cosa che rimarrà sempre sarà la semplicità e la spontaneità con cui fare le cose, senza magari badare troppo a troppi effetti. Cioè, meglio che ci siano delle cose messe nel posto giusto che troppe che fanno confusione, è meglio togliere piuttosto che aggiungere a volte. Quindi magari quando si sarà in studio a fare queste cose qui, a registrare, si lavorerà anche magari su questo. Magari può essere che proviamo a mettere un sacco di robe, poi sentiamo che non vanno bene, allora si devono tagliare. Si taglierà. Però voglio chiederti una cosa: hai già nel cassetto altri pezzi non presenti nel live che avete fatto recentemente? Sì, qualcuno c'è, sì, che è assolutamente new entry, cioè è assolutamente sconosciuto per adesso. Sconosciuto ancora a me, magari. Cioè, sconosciuto a noi, a te sì, sicuramente no. Anche a me. Beh, no. Anche a te. No, sconosciuto anche a me, nel senso che comunque cioè, l'idea, sono pezzi che devono essere ancora finiti. Che non... Ma come nasce un pezzo tuo praticamente? Al di là, come nasce all'inizio? All'inizio è difficile. Cioè scrivi il testo praticamente e poi fai qualche accordo di chitarra. No, viene insieme. Cioè, il testo è una rielaborazione successiva che poi. Quindi la musica c'è prima. La musica parte magari da un giro carino. Sì, che ti viene in mente. Prende e la linea vocale lo segue. Ho capito. E poi si fa. Poi diciamo che il testo un po' viene anche insieme a questo. Magari mi viene una frase che mi piace, poi ci lavoro attorno, oppure... E poi le presenti a Lorenzo, ti dà anche un'idea praticamente così? Sì. Cioè c'è un concorso di intenti su questo? Nel senso questo, che magari siccome appunto io scrivo le cose da sola, non ho quell'oggettività di poter dire questa cosa è bella, vale oppure no. Certo. E lui praticamente fa un po' una, tra virgolette, selezione e dice: una sintesi, insomma, questa canzone è bella, la facciamo, oppure in questa parte qui ci andrebbe questa cosa, secondo me, perché... E quindi poi diventa un... Cioè, alla fine è una cosa che dà valore, perché comunque non si è... Se lavorassimo insieme... in contemporanea non sarebbe la stessa cosa, perché entrambi saremmo dentro al pezzo e non riusciremo a capire magari le cose che non vanno bene, insomma. Certo, invece c'è una perché magari ci abituiamo ad ascoltarla troppo e quindi oltre a, ci perdiamo un po' dentro. Voglio chiederti, oltre a quel disco live che avete fatto, hai fatto qualche altro concerto in giro, sempre presentando in duo il materiale di Ballon d'Or? Sì, suoniamo abbastanza, insomma, suoniamo e siamo sempre in due, come più o meno come siamo adesso. Con gli stessi strumenti. Questi strumenti, sì. Esattamente. Poi ci sarà l'idea, però, abbiamo detto all'inizio, sì, dell'allargamento. Però è il bello dello studio, infatti noi pensavamo appunto di fare questo passo in avanti registrando, perché il bello dello studio è proprio quello che non ci sono limiti, uno può registrare quello che vuole. Se poi il pezzo funziona, comunque è bello, funziona anche se siamo in due, così, certo, con due chitarre, con quello. Poi non si può che valorizzare, quindi magari anche inserendo anche degli altri strumenti, un flauto, qualsiasi cosa, però non è che vai dal vivo, bisogna essere in 20 a suonarli. Li suoniamo sempre noi due, però in una versione più, una versione diversa. Però poi il pezzo, insomma, perché deve essere il pezzo che sta in piedi da solo, non deve essere tutto il contorno, cioè, che lo tiene, intendi, che lo tiene in piedi. Certo, tu intendi, se il pezzo sta in piedi, ci siano cinque musicisti, che ci siano due musicisti, il pezzo è sempre valido. È bello anche solo con la voce, se è una bella linea melodica, ad esempio. Solo la voce e battere le mani, ad esempio. Esattamente. Come facevano nel blues. Sì, sono d'accordo con te. Ok, sono le 22:32, facciamo un altro pezzo da disco che abbiamo scelto, un altro pezzo dalla scaletta, dall'album, dal primo album, dell'EP dei sei pezzi. Ti ricordi che traccia hai scelto? Era Picarun, numero 4, la sentiamo adesso. I will love the day and dance, give my wonder. Svolta. Pubblico e privato. Le interviste di Paola De Simone. Sono Paola De Simone e vi aspetto tutte le notti, dal lunedì al venerdì, con Pubblico e Privato, incontri con personaggi del mondo dell'arte, un'ora in cui andremo ad approfondire la conoscenza di protagonisti e comprimari, sempre con una luce accesa sulle vicende umane di ognuno. Dal lunedì al venerdì, Pubblico e Privato, le parole della notte in blu. A mezzanotte, su Blu Radio Veneto. Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ci stiamo piacevolmente conversando con Lorenzo e Chiara sul loro progetto Valium Doll. Questo abbiamo sentito un pezzo dall'EP del 2008. Mi ridici il titolo, va, Chiara? Picaroon. Picaroon. Parlavo con Lorenzo prima, c'era una chitarra effettata che suonavi che te. Che ho suonato io. Hai suonato te. Un pezzo più veloce, più leggermente mosso rispetto agli altri, volutamente mosso, mi pare giusto che sia così. L'effetto è effettato, il muovere più il pezzo più ritmico, è stata un'idea tua oppure è stata un'idea assieme? Ti ricordi? Beh, è stata un'idea di prove in studio, diciamo. Tra l'altro un'idea di Francesco che ha buttato, però qui magari potremmo fare questa cosa con il tremolo, proviamola e vabbè. È andata bene. Sì. L'avevamo fatta, io volevo farlo senza, però era più bella con il tremolo. No, è venuta bene sicuramente. Lorenzo parlava di un discorso interessante, microfoni spenti, adesso lo puoi dire a microfoni aperti, del tremolo. Ah, il tremolo che in quel caso era un effetto, un pedalino, però era un effetto che c'era presente sui vecchi amplificatori. Esatto, Fender, volevo proprio citare questo. E anche gli amplificatori Vox che ce l'avevano proprio tra i comandi e faceva proprio questo effetto, si sente proprio l'onda, poteva regolarne sia la velocità che l'intensità. E infatti su tanta roba, su tanta musica vecchia si sente proprio che ne abusano anche in certi casi, proprio perché erano... Una delle poche cose che c'era, riverbero e tremolo. Esattamente. Cosa ne pensi del discorso di molte band, in primis i Pearl Jam, si sono rifatti, riprendono il discorso del vintage, di quegli amplificatori di una volta, bellissimi, che avevano un suono, che avevano un'anima sicuramente rispetto a quelli di adesso. Che fanno bene perché sono degli amplificatori con un carattere diverso. Valvolari, i famosi valvolari. Sì. Pare che anche adesso continuano comunque a fare tutta roba valvolare, però c'è il discorso della qualità dei componenti, schede stampate, mentre una volta erano fatti a mano, e quindi un po' c'era anche la qualità, diciamo. Anche io ho degli amplificatori Fender vecchi, okay. Quindi sono anche un fanatico di quelle cose là, quindi mi è proprio colto nel segno. Io ti dico una cosa, 4-5 mesi fa sono venuti una band venuta da Mantova, mi pare, e c'erano 4-5 ragazzi e due avevano la funzione di prendere l'amplificatore valvolare, di tenerlo come una reliquia, gli avevano messo un panno sopra, poi hanno levato via il panno, l'hanno acceso in una certa maniera, con una certa dimensione, con un certo minutaggio, e poi gli hanno rimesso subito il panno. Una cosa, era favoloso, si vedeva anche visivamente, era una cosa favolosa, pesantissimo, e aveva un suono, una potenza, dava una potenza e si sente, c'è poco da fare, è un'altra dimensione. Sì, io non sono proprio così maniaco. No, è proprio, cioè, erano così, ma costava un sacco. Li uso normalmente, anzi devono anche funzionare bene, quindi magari essendo roba vecchia di 40 anni, certo. 45 anni, tante volte hanno bisogno di essere sistemati. Sì, esatto, avevano, è del 63-64 era all'epoca quella. Quindi anch'io quando ho preso il mio ne ho uno del 73 e uno del 76. E alla fine li ho portati da un tecnico e mi ha cambiato le valvole, in su uno ho dovuto cambiare anche i coni perché comunque erano deteriorati, perché certo. Il tempo si fa sentire i condensatori. E infatti c'è un po' uno scontro di opinioni su questo campo, che ci sono quelli che lo vogliono tenere originale a tutti i costi perché... Il suono è quello. Esatto, perché dicono così, e quelli che invece li sistemano, però... Perché uno dice, ad esempio, i Rolling Stones, Keith Richards registrava con vecchi ampli Fender e io lo voglio uguale, quindi voglio avere lo stesso suono. Sì, però sono passati tanti anni. Però Keith Richards usava un ampli Fender nuovo, non usava con le valvole spompate, con i coni deteriorati, quindi vanno rimessi a posto se uno vuole che siano efficienti, almeno questo è il mio punto di vista. E poi un'altra cosa, sempre 2 anni fa invece sono venuti dei ragazzi, questi erano da Ancona e avevano un organo Farfisa che pesava circa 200 kg. Ed è dal 1968 questo organo, è una cosa meravigliosa, aveva un suono spaventosamente incredibile secondo me, pesantissimo ma di una bellezza anche visiva, veramente fantastico. E quelle sono belle cose. Anche perché allora li facevano con più... Li facevano adesso fanno tutto in serie, esatto. Schede stampate, cose, poi ci sono anche proprio i difetti tipici delle saldature fatte a macchina e quelle cose là. Sono tecnico, no? Sei un tecnico, Lorenzo. Con questi amplificatori vecchi che ho, ne ho avute di tutti i colori prima di farli funzionare come si deve. E poi io non sono un maniaco. No, però... So che insomma mi sono documentato per vedere come si faceva a sistemarli, poi io da solo non sarei in grado, infatti li ho portati sempre, però anche siccome vanno anche appunto bisogna sostituire delle parti, ci sono quelle più fedeli alle originali, quelle meno così, quindi mi sono un po' documentato, è pieno di informazioni comunque in internet, ci sono dei forum apposta. Quindi tu sei d'accordo per il suono valvolare o sei d'accordo per il suono moderno? Diciamo che ci sono certi, in alcuni casi è meglio il valvolare, in altri casi è meglio... Quello tecnologico a transistor, dipende, ognuno ha le sue esigenze, dipende da cosa uno vuole esatto. fare. È come uno che vuole fare metal e si prende un amplificatore, una chitarra magari costosissima, una Fender, e non è adatta, e viceversa, se uno fa jazz non va bene, certo. Non e le amplificatori avevano i ragazzi quando suonavano metal? Ma avevano dei Laney, mi sembra, sì. Ampli Laney, sono anche... Cioè, normali, sono sì, ampli neutri, diciamo. Sì, ampli neutri. Non davano una certa potenza per quello. Sì, erano, diciamo che avevano quel suono abbastanza secco, adatto. Sì. Bene, a proposito di suono secco adatto, adesso facciamo il vostro suono, sono le 22:42, facciamo un altro pezzo, a vostro piacimento, quello che volete. Ok, facciamo What Walls. Ok. Ok, bene. Hear me try and ask me why I'll make it. I got a million ways to explain it. And in this plane covered with my bad words, I had my soul discouraged by my solitude. It makes me older. Strange thing to the wet walls. Steam is breathing all around as the water falls. Sun is shining in a strange pose. A rays brightening, a table full of paper dust. Enjoys the light surrounding all the air. This great school worried by being late. It makes him older. Strange fan to the wet walls. Steam is spreading all around as the water falls. It makes him older. It makes him older. It makes him older. Strange fan to the wet walls. Steam spreading all around as the water falls. It makes me older. Ok, bellissima melodia, bellissima. Il folk, sì, ma un folk molto melodico, secondo me. Io ho trovato un pezzo folk, assolutamente. Con qualche inciso, sì, possiamo dire scheletrico, tutto quello che vogliamo, però era folk. un po' diverso dai precedenti, a mio parere. Non so se siete d'accordo. Cosa dite, Chiara e Lorenzo? Sì, era un po' diverso. Sì, è leggermente diverso. Un po' più di melodia. Sì, esattamente. La melodia c'era, era evidente, era praticamente il DNA essenziale di questo pezzo. Era folk, possiamo essere d'accordo, però molto melodico. Meno, sì. meno scheletrico, aveva un pizzico di ritornello, un po' accattivante, possiamo dire. Non dico che non era il pezzo dei Velvet, però si avvicinava a certe cose loro. No, siete d'accordo? Sì? Beh. Okay. Bene, sono le 22:46, quindi abbiamo fatto l'EP da studio e poi abbiamo fatto questo disco dal vivo. Come avete avuto l'occasione di fare questo disco dal vivo? Siete messi d'accordo con il locale, eccetera? Abbiamo questo concerto che praticamente c'erano dei fonici lì che ci avrebbero seguito, che ci hanno detto che avrebbero registrato appunto il concerto. Quindi abbiamo fatto anche un soundcheck, tutto. Ah, avete fatto già tutto predisposto, molto curato. Cioè, sì. È stato curato apposta per appunto fare delle belle registrazioni. Beh, è venuto molto bene. Ripiloghiamo il titolo del disco: Mixing Up the Medicine. È uscito da pochi mesi, quindi è stato registrato molto bene. Si sente molto bene. Tutto quanto era perfetto. Era un pezzo, è un disco dal vivo, però fatto bene, cioè nel senso non avevo nessun problema. Sì, poi anche il vantaggio di avere una strumentazione ridotta. Esattamente. E quindi insomma. Che vuol per togliere merito ai fonici che ci hanno registrato, però si fa anche più semplice magari registrare due chitarre anziché avere batterie, bassi, voci e chissà cosa. Certamente. Quindi è venuto bene anche per quello, secondo me. Quindi siete stati soddisfatti, sì, assolutamente. Sì. Sì. Tu, ripetiamo il discorso che hai detto, che si può scaricare gratuitamente, eccetera. Sì, si può scaricare gratuitamente su Bandcamp, volumedoll.bandcamp.com. Nella pagina c'è anche che si può ascoltare There Was Something in My Drink. E c'è anche appunto Mixing Up the Medicine, si può ascoltare o anche scaricare gratuitamente. C'è anche, scaricando l'intero album, c'è anche una copertina per stamparla. Sì, sì, chiaramente c'è la copertina, se uno vuole chiaramente avere anche la copertina, giustamente. Poi tu hai partecipato a un progetto con un pezzo solamente, vero? Sì, si tratta di Stare at Stars. Esatto. Che è un pezzo che abbiamo registrato per la seconda compilation della Shirek del 2009. È una cosa interessante sicuramente. Sì. Shirek è un'etichetta. Possiamo possiamo dire che Stare at Stars sia, come registrazione da studio, un punto che può collegare There Was Something in My Drink e un prossimo lavoro nuovo. Ho capito. Perché già una testa di ponte, possiamo dire così. Sì. Perché secondo te? Perché secondo voi? Stare at Stars è un brano che è un po' più, diciamo, più che articolato, più evoluto rispetto ai precedenti, anche come arrangiamento. Chi l'ha arrangiato? Sempre, voi avete avuto un aiuto? Abbiamo usato per la prima volta una chitarra acustica, che prima io usavo un'elettrica. Elettrica, chiaro. E abbiamo usato anche un flauto. È che non era una novità assoluta. Sì. Allora, sì. Il discorso del flauto e degli altri strumenti che verranno fuori, si parte, esatto, da quello praticamente. Praticamente sì. Bene, è una cosa interessante. E poi i suoni sono stati curati in maniera diversa. Invece di registrare direttamente quello che usciva dagli amplificatori, poi è stato processato in un secondo momento durante la fase di mixaggio, aggiungendo riverberi o altri effetti. Una cura meticolosa, allora. Sì, quindi è stato più. È una cosa che, così come si sente sul brano, dal vivo non sarebbe riproducibile, diciamo, neanche in due. Però è stato una specie di esperimento che è venuto anche bene, se a mio avviso, perché crea delle atmosfere, anche il flauto, l'aggiunta del flauto fa un po'. Sì. Serve. Sì, valorizza. Valorizza, certamente. E quindi sarà una, come tu hai detto, una testa di ponte, un'evoluzione che poi porterà. Abbiamo detto che c'è quel disco da fare, si farà questo disco, si inciderà. Ci sarà degli elementi di questa incisione, potrebbero essere anche messi in questo disco nuovo, allora, praticamente, questa evoluzione musicale. Beh, no, nel disco nuovo registriamo da zero tutto. Sì, d'accordo, però le idee della registrazione di questo pezzo possono essere. Sì, questo sì, voglio intendere. Quei presupposti possono essere messi là praticamente nel disco nuovo che si farà. Ecco, d'accordo. Sì. Questo volevo dire, questa cosa. Benissimo, sono le 22:50. Adesso, secondo me, Facciamo un altro pezzo dal disco, dall'IP che abbiamo in scaletta. Ti ricordi che pezzo era? Era The Line of Nothing. Che traccia era? Era quella che c'era la tua chitarra. Sì, può essere. Noi la sentiamo e poi vediamo, ok? Al massimo correggiamo dopo. Every day spent here seems a complete waste of time of all the lies I'll tell you her. I'm worried the brave is a poor one look forward. The shyness and tingling and the urges stopped. I look at her, she look at me. Where can I finally begin? It tried to teach, it found anything. She came here to be an artist, but she's too thin. Gay flies away, her pussy's mass outdone. God gives herself for a product of glands. They grow like the green grass, dusted with the fire, dusted with something I ignore all the time. I look at her, she look at me. Where can I finally begin? It tried to teach, it found anything. She came here to be an artist, but she's too clean. It tried to teach, it found anything. She came here to be an artist, but she's too clean. She's too clean, gate is too clean, gate is too clean, gate is too clean, gate is too clean, gate is too clean, gate is too clean. Counting the time spent along with the terrors, believer to still boy awaiting in line. The line of nothing, the line of emptiness, wearing by dresses, all to feel fine. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. State ascoltando sempre Rock Wave con Maurizio Calzavara alla conduzione e Michele Tosoni in regia. Stiamo parlando sempre con Chiara e Lorenzo del loro progetto Valium Doll. Questo era un pezzo abbastanza recitato, declamato, e giustamente, come diceva Lorenzo e Chiara, a microfono spento, qui proprio lo scheletro della chitarra si inserisce praticamente, cioè rincorre il cantato, il declamato di Chiara in questo pezzo. Cosa dite? Sì, sì, è quello che di cui parlavamo, sì, prima, della recensione, esattamente. E quindi, secondo me, quando ha scritto la cosa, si riferiva proprio a questo. Sì, questo modo particolare di suonare la chitarra, cioè di questo rincorrere la vocalità di Chiara. Questo è un pezzo abbastanza duro, nel senso, un poco melodico, secondo me con qualche pezzettino, qualche flash di blues nascosto, forse, non so se sei d'accordo, qualcosina. Un po' così. Sono 22:54. Ringraziamo il nostro direttore artistico Alberto Pisco che vi ha voluto qua stasera. Grazie. E grazie. Facciamo un saluto anche alle nostre tre ascoltatrici rockettare, che sono la Nicoletta, la Patrizia e Silvia, che seguono sempre i programmi rock, oltre ai programmi della nostra radio, anche particolarmente i programmi rock. Ciao ragazze. Ciao, ciao ragazze. Allora, benissimo. Facciamo la piccola domanda stasera, la facciamo solo a Lorenzo, così. I dischi tuoi preferiti da portare su un'isola deserta, Lorenzo? Allora, così su due piedi è difficile, è un po' difficile, lo so, rispondere a questa domanda, quindi magari entrare nello specifico. Sì, un po' i tuoi punti di riferimento, dai. Potrei dire, allora porterei qualcosa di Jimi Hendrix. Cosa di Jimi Hendrix? Il primo periodo o l'ultimo periodo? Ma io porterei a me piace molto, è un artista che ho ascoltato in tutte le salse. Mi piace sia il lavoro in studio che il lavoro dal vivo. Quindi sarebbe bello anche tipo, non so, live a Monterey, sì, quelle cose, okay, là, però poi anche Electric Ladyland, sì, ad esempio, certo, che ci sono tutte quelle cose tecniche di, sì, registrazione, insomma, spaziali. Poi potrei portare, non so, qualcosa dei Pink Floyd, ad esempio il mio disco preferito, a parte che non ce n'è proprio uno preferito, però Animals mi piace tantissimo, ho ascoltato un sacco di volte. Sì, un sacco di volte, poi Dark Side of the Moon, quello là. Quello è un mitico album. Poi potrei portare, non so, qualcosa dei Beatles, Rolling Stones, Beatles, potrei portare The White Album, potrei portare The Nirvana Nevermind. Che è un disco che mi è piaciuto tantissimo, l'ascoltavo. Secondo me ti è piaciuto perché ha aperto certe sonorità? Perché ti è piaciuto? Sì, mi è piaciuto perché mi ha colpito. Diciamo che quando ho iniziato ad ascoltare, che ero piccolo, prima che morisse, anche tra l'altro. Sì, mi piaceva perché comunque era una musica abbastanza dura. Poi c'era questo cantato così urlato a squarciagola, che non era metal con quelle voci impostate, era proprio uno che doveva urlare le sue cose, quindi mi colpiva quello. E poi invece ultimamente, quando ho iniziato ad analizzare la musica un po' di più, mi ha colpito che quei pezzi lì sono dei pezzi suonati con dei suoni abbastanza duri, diciamo. C'è la batteria, che è una batteria bella, dura, bella convinta, sì. Anche le distorsioni. Sono... Sappiamo chi suonava la batteria, no? Sì, Dave Grohl. Appunto, che adesso fa Foo Fighter, disco durissimo l'ultimo di Foo Fighter. Però, non so se l'hai sentito. Sì, l'ho sentito. Molto duro, decisamente. Però i pezzi erano dei pezzi che comunque erano... mantenevano una melodia, avevano dei bei ritornelli esplosivi, erano dei pezzi fatti bene. Era, secondo me, il tipico esempio di come si può rendere anche il pop, personalizzarlo anche con dei suoni tra virgolette non pop, che poi è una parola perché comunque non è che suoni non siano non pop, certo. Però uno dice il pop, si immagina quelle cose là di Britney Spears, invece secondo me quell'album lì di Nirvana è super pop, certo, decisamente. Ma... super pop. E quindi quello porterei. Poi, a proposito di Nirvana, ti ricordi, a proposito di pop, di suoni un po' particolari, suoni e chitarra, l'unplugged loro, favoloso. È il tipico esempio di dei pezzi che anche privati dei loro suoni, certo, stanno in piedi lo stesso, anzi acquistano un'altra forza perché comunque sono belli anche suonati. E sono belli perché sono belli come perché pezzo, belli pezzi, che è valido, come parlavamo prima, se il pezzo è valido, che sia fatto in una versione particolare, sia in un'altra versione, se è valido rimane in piedi, resta. Infatti non tutti i pezzi sono proponibili in versione unplugged, soprattutto ad esempio quelli del primo disco di Nirvana, di Bleach, ne hanno fatto solo uno, About a Girl, che è la più orecchia, che è quella più melodica, diciamo, che sta quella in piedi, più accettabile, sta dentro. Le altre non avrebbe avuto senso farle in versione unplugged perché era quasi tutto suono, e quindi se una volta tolto quello non rende più. A proposito di una cosa, a proposito di urlate, come le Black quando suonavano hard urlavano, Chiara, oppure si davano molta energia quando suonavate? Io ho sempre cantato così. Ah, hai sempre cantato così, quindi non è cambiato molto per te, insomma. Cioè, chiaramente è cambiato il modo, il genere è cambiato, musicale. È cambiato il modo di impostare le linee vocali. Ho capito. Era un'altra cosa. Certo. Beh, chiaramente adesso in questa tua dimensione, questo tuo progetto è diverso. Però io volevo, parlavo del discorso quando eravate in quattro, mi pare. Eravate in quattro. Cioè, la potenza della vocalità, la tua era sempre la stessa. Le altre tre come erano, più forti, meno forti? Beh, impostavano sempre in una certa maniera. Facevano i cori praticamente. C'erano dei cori, ma ritenuti un po' più bassi, erano più esplosivi per valorizzare determinate parti. Mi sembra di ricordare. Poi non so, mi sembra che cantassero. Ma non erano anche tantissimi i cori. Proprio una roba minima. Ah, una roba tua praticamente. Cioè i cori erano minimi praticamente nell'insieme del progetto. Ok, rifiniamo, abbiamo parlato di Nirvana e poi come ultima scelta che farai adesso? Non mi viene in mente niente di preciso. Beh, abbiamo parlato di Nirvana, abbiamo parlato di Beatles, di Rolling Stones, abbiamo parlato di Pink Floyd, quindi abbiamo parlato dei classici. Sì, quelli. Poi la musica di adesso sinceramente non è che... porterei su un'isola deserta, però non lo so, porterei Temple of Boom dei Cypress Hill. Ecco. Non mica male. Che mi piace un sacco. Bene. Lo ascolto sempre, è l'unico disco dei Cypress Hill, i primi tre, quelli fino al 95 mi piacciono, poi gli altri un po' meno. Però quelli là mi piacciono un sacco, ecco, quelli porterei, mi ero dimenticato infatti. Sei arrivato nel momento giusto per dirlo. Sono 23, proprio in questo momento, 23:10, adesso suoniamo qualcosa, ragazzi, che cosa? In scaletta cosa c'è? Facciamo Rare Dude. Sì. Okay, allora? Abbiamo sentito prima. Rare Dude. Sì, abbiamo sentito prima, ok. Un attimo. Bene, bene. Vai. given sight or given elbow stones. I am sometimes too far. I am sometimes too far. And soon I've gone away from that freaky place. I spoke about my mistakes as loud as I heard. I am sometimes too far. I am sometimes too far. Another horrible lies breathed in the air. And when I turn back my way, I saw them crying. I am sometimes too far. I am sometimes too far. I am sometimes too far. I am sometimes too far. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Volevo dirtelo, però aspettavo. Eccolo qua, sì, me lo vuoi dire? Vabbè, adesso lo diciamo. Adesso lo diciamo, diciamo direttamente dal vivo. Ok, 23:03. Io ho letto fra le recensioni, sempre parlando del primo disco, però non so, può essere adatto anche a adesso. Un critico ha scritto Chiara che tu hai una fusione vocale tra Cat Power e Cristina Donà. Cat Power può essere d'accordo. Cristina Donà, cosa ne pensi? Cristina Donà non ho ascoltato, non hai sentito quasi niente. Alla fine, quindi non saprei proprio dire, non posso esprimermi. Ok, ho capito. Critico ha avuto. Cat Power sì, posso essere d'accordo. Cat Power la conosci però? Sì. Esattamente, ottima cantautrice. Ha fatto un disco che si chiama Greatest Hits, che non è una raccolta, è un disco ufficiale suo. Tutti pensano, non è una raccolta ragazzi, è un disco di inediti, praticamente. Lei è intitolato Greatest Hits. Però è molto interessante, americana. Dimmi. No, ha fatto bene, è un'idea. È un'idea, sì, un'idea diversa dalle... Sembra un po' sembra una una presa in giro per... Sì, è una presa in giro, esattamente. Per quelli che fanno i Greatest Hits dopo un album. È vero, capita. Ci mettono però le Ghost Track, quelle là, po' sconosciute, le tracce sconosciute. Sì, ma non sono più Greatest Hits allora. Lo so, ma sai come va. Il disco è autoprodotto al 100%, no? Tutti e due sono autoprodotti da voi praticamente. E giustamente si deve fare così per poter fare un disco adesso, questi ultimi tempi, no? Cosa dite? Eh sì, anche perché se uno non ha nessuno che... Cioè non è un'etichetta, non è niente, un manager, eccetera. Non può fartelo da solo. Esattamente. Poi adesso con le tecniche che ci sono adesso è semplice. Semplice, sì. Tra virgolette. Insomma. Diciamo che è più accessibile, però poi per fare una roba fatta bene ci vuole lo stesso esperienza. Ci vuole uno studio come si deve, eccetera. Per saperlo fare, avere anche poi tutti i mezzi. Esattamente. Ma sì, perché... Dimmi. No, che nel senso anche noi abbiamo tutti i nostri programmini per registrare i microfoni e tutto, però poi quello che viene fuori lì poi resta... Fa sempre della differenza la professionalità alla fine. Certo, possiamo dire tutti sono idealmente capaci di fare un disco con le tecniche moderne, però come riesce questo disco se non c'era, ci vuole anche l'esperienza. Chiaramente sono delle tecniche in continua innovazione e quindi è un vero e proprio lavoro. quindi avere la presunzione, tra virgolette, di mettersi lì e pretendere di registrare un disco senza avere nozioni né niente, quando c'è gente che ci studia una vita e fa sempre esperienza quotidianamente, esperimenti e tutto, sembra un po'... Infatti secondo me è meglio affidarsi appunto a questi professionisti se uno vuole avere un risultato di qualità. Poi naturalmente ci sono, in tanti casi sono un po' i prezzi proibitivi. Cosa ne pensi dei prezzi proibitivi degli studi? No, penso che comunque c'è un sacco di gente che ci lavora, è giusto che vengano pagati. E in più anche a me è capitato di andare ultimamente in uno studio. Tu hai un progetto adesso in giro, no? Mi è capitato di andare ultimamente in uno studio che è uno studio bellissimo. Di un certo livello. È fatto apposta per essere uno studio, è stato costruito con le fondamenta in sabbia, c'è uno stanzone che sembra una palestra, per dire, con quei rimbombi tipo quando si gioca a basket in palestra. Che ci vogliono apposta, quindi chi si è preso l'obbligo di costruire quella cosa lì ha bisogno anche di un tornaconto economico, cioè certo, ha investito, chiaro, quindi deve ritornare tutto il materiale, l'attrezzatura, i fonici che ci lavorano dentro quotidianamente, hanno bisogno di essere pagati, quindi è ovvio che poi se uno vuole un lavoro di qualità che è aiutato comunque da tutta questa gente, poi questi lo fanno di lavoro e come tutti hanno bisogno, certo, del, sono dello stipendio. D'accordo con te. E un'altra domanda che spesso possiamo fare alle band, che è questa domanda, cioè c'è possibilità di suonare pezzi originali vostri in giro, oppure ci sono delle grosse difficoltà secondo voi negli ultimi tempi? Ma dipende come. Cioè dipende come, cioè in che senso dipende come, cioè, riuscite a suonare pezzi vostri nei locali oppure no? Sì. Noi suoniamo solo pezzi nostri, quelli dei dischi. Sì. E un esempio di un nostro spettacolo dal vivo è quel disco lì di cui parlavamo prima, abbiamo free download. Sì. E così noi suoniamo sempre quei pezzi. Non avete problemi, insomma, di questo genere? Non ci è mai capitato di suonare pezzi. Sai, ti dico perché? Perché spesso volentieri chi viene qua a suonare dice... Molti locali vogliono assolutamente, esclusivamente solo le cover e basta. Dipende da che posti. Uno in quei locali lì non chiede neanche, perché si sa, anche perché comunque è anche comprensibile questa cosa. Uno va in un pub a bersi qualcosa, sì, certo. O comunque preferisce sentire, non so, una canzone di Vasco Rossi che non, di Ligabue, non sentire un pezzo sconosciuta, accuratamente, certo. Magari può anche non piacergli. Quindi ci sono dei posti apposta invece dove uno va per sentire appunto i gruppi nuovi. Quindi ci sono ancora i posti per far questo? Sì, ce ne sono un sacco, infatti noi e anche io con il mio gruppo e anche tutti i gruppi intorno qua, della zona. Del nostro circuito, diciamo, i gruppi che si esibiscono nei nostri stessi posti, fanno tutti un repertorio proprio e sì, è fattibilissimo. Perché io sentivo spesso, cioè non dico sempre, però... Spesso e volentieri molti gruppi che venivano qua avevano difficoltà di suonare i loro pezzi perché non trovavano i posti per suonare i loro pezzi, non accettavano il suono di pezzi inediti, accettavano solo il suono di pezzi già famosi, questo voglio dire. E quindi è positivo quello che tu mi dici, sì, cioè i posti ce ne sono ancora, chiaramente. Benissimo. 2308, facciamo un altro pezzo dal disco, non so che traccia c'è adesso, la traccia numero 8 mi dice Michele, adesso la sentiamo e poi ne parliamo, ok? Sì. Thank you. Torino. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Stiamo sempre piacevolmente parlando, conversando con Chiara e Lorenzo del loro progetto Vale un Doll. Sentiamo, allora abbiamo ascoltato questo pezzo che tra l'altro fa parte della compilation, questo uso del flauto, molto particolare ma molto interessante, un'idea buona, un'idea che ha fatto centro secondo me, il pezzo è costruito bene, è arrangiato bene come avevamo detto precedenza, quindi ha un certo peso insomma, specifico. Cosa dite? Sì. Sì, c'è il flauto che poi... Ovviamente non possiamo fare io e lei, quindi abbiamo le mani occupate. Certo, le chitarre. Esatto. E quindi quando suoniamo questo pezzo dal vivo lo facciamo in un altro modo. Un'altra maniera. È un po'. Sì. Il flauto dava una dimensione folk, più delle altre, forse. Sì. Molto inglese in alcuni momenti, non so se siete d'accordo. Meno che americano. Oh. Ma anche se non ci sono divisioni, più che altro col flauto con quell'effetto riverbero, almeno a me. Poi non che so sensazione è una sensazione tipo dimensione sogno. Come. Anche quello, sì, è vero, vero, un po' onirico. Dai, facciamo così. Ma è interessante, dai, un'idea buona, un'idea azzeccata che ha portato il pezzo. Che ricordiamo, fa parte della famosa compilation. Sì. Gli altri pezzi della compilation ve li ricordate? Che altri artisti c'erano? Te li ricordi, Chiara? C'erano, se non sbaglio, i New Candies. I New Candies? Era quello. Non me lo ricordo, perché ne fanno uno ogni anno. Ah, ne fanno uno ogni anno. E quindi ci sono... numerosi artisti. 20 tracce, una per ogni artista. Quindi no, ce però ne sono mi tanti. Sa che c'erano. C'erano. E poi... Sempre artisti indie, sempre artisti sì, alternativi, sì. Insomma, praticamente. Sì, di quei gruppi di cui parlavamo prima, che si esibiscono con un repertorio proprio. Poi gli Wara Wara Washington. Ah sì, quelli conosco anch'io, sì, esattamente. Bene. Ok. Sono dei nostri amici. Bene, suoniamo qualcosa. Cosa adesso? Io proporrei di suonare Stella Stars, quella che abbiamo appena sentito. Nella versione due chitarre, ok? Sì. Bene. Sometimes more and sometimes less. What about respect? Waiting for another trance. What is that I reflect? I have something to clean. There were so many things I did not forget. Now wish to forget. I can't stand, I can't stand, I can't stand. At star, at star, at star. Without think and without blame, he had so many fans. That's what I call betrayal. In a summer of tales, there were all whispered dreams. He had so many things he did not forget. He wished to forget. You can't stand, you can't stand, you can't stand. At star, at star, at star. At star. At stars, at stars. We can stand, we can stand, we can stand, we can stand at stars. at stars, at stars. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Il flauto era ottimamente sostituito dalla tua elettrica, per dire, il tuo sì. Inciso, bellissimo. E possiamo dire che questo poteva essere anche un singolo potenziale, decisamente poteva, oltre ad essere inserito nella compilation, l'abbiamo già citato, aveva un bel traino. Infatti avevamo scelto di inserirlo nella compilation proprio per quello, perché tra tutti i pezzi che avevamo fino a quel momento ci sembrava il più adatto, il più tra virgolette singolo. Una scelta azzeccata sicuramente, era molto molto interessante, bello, accattivante, aveva una melodia che era presente anche stasera, adesso poi in questo momento, anche se non c'era il flauto c'era la chitarra elettrica, però non cambiava assolutamente nulla. Sì, c'era un suono diverso. Sì, un suono più meno sogno. Sì, meno sogno, più reale, però è sempre un suono, un sogno anche questo, ideale, tutto quello che volete, però era interessante, decisamente. Comunque benissimo, anche dimmi. Magari nel prossimo lavoro potrebbe essere tra i brani più singolo, diciamo. Esattamente. Dammi qualche altro input del prossimo lavoro. Abbiamo già parlato, però non hai tirato fuori tutto quanto proprio. Ma perché non c'è altro? Ah, non c'è altro. Per adesso. Ma qualche idea, se ti viene un'idea, fra qualche giorno, di scrivere qualcosa, la scrivi immediatamente, dai a Lorenzo, cioè vi mettete d'accordo, fate già la melodia, è possibile, può succedere questo? Cioè, ci sono delle cose che dobbiamo vedere insieme. Sì. Diciamo che una volta che ci sono i pezzi stesi con la struttura, diciamo che c'è la strofa, il ritornello e tutte le parti, così. Quelli che funzionano si mettono. Esatto, poi ascoltandoli uno può dire, secondo me qua ci starebbe meglio un po' più di ritmo. E allora si può scegliere se mettere questo, il cimbalo. Fammelo sentire un'altra volta. Ecco, non sono proprio il massimo, però è già significativo, è una specie di mini batteria, dai, possiamo dire. Sì, serve per dare quel tocco un po' di ritmo. Esattamente. O magari qua ci sarebbe meglio una batteria, oppure qui ci sta meglio il basso, due chitarre sono superflue, tutta una cosa che ancora si può decidere a priori, è una cosa che viene dopo, secondo me. Provando, riascoltandolo, qua ci sarebbe qualcosa, qua i cori, qua invece magari magari un pezzo sta meglio solo lei che canta con la sua chitarra acustica e basta. Certo, certo. E così poi sì, abbiamo deciso il prossimo disco lavoreremo in questo modo qua. Ma il flauto si inserirà un'altra volta secondo voi oppure no? Al di là del pezzo che abbiamo già sentito prima. Ma perché no? Se ci sta si può inserire. Quindi non c'è esclusione di nessuno strumento. Le vie della provvidenza musicale sono infinite. Serve un coro gospel di 20 persone, esatto. Si chiamano. E via. Sì, certo, però non si, non si sa mai, perché no? È bello essere free, la libertà di scegliere. Sì, è bello per quello, no? Perché non vedo perché limitarsi. Io sono dell'opinione che, proprio come dicevo prima, nello studio si può registrare qualsiasi cosa finché sta bene, non è di troppo. Se valorizza, perché non metterla? Poi uno quando se lo ascolta dice, ah senti che bello, alla fine è sempre una cosa che abbiamo fatto noi. Poi dal vivo magari... può allargare. Sarà riproducibile. Magari se vediamo che è indispensabile una batteria per certi pezzi e vogliamo proporli dal vivo, perché no, si può chiamare qualcuno, conosciamo un sacco di persone che sono disposte a darci una mano. Magari con una batteria minimale, ecco, quello come dicevamo prima, tipo il discorso dei Nirvana dell'Unplugged di New York, una cosa del genere, avevamo idea. Dobbiamo ancora capire in che pezzi magari ci sta, però una cosa del genere, o magari in alcune parti potrei suonare io il basso e lei la chitarra con la batteria, fare un po' più una dimensione gruppo, una specie di, non voglio fare proprio un parallelo diretto, però come Bob Dylan quando fece la svolta elettrica, sì, che aveva Blonde Blonde. Sì, non mi ricordo, Bob Dylan. Sì, sì, Bob Dylan con Blondo ha fatto una facciata elettrica e una facciata acustica. Sì, non so adesso di preciso. Sì, ha fatto il famoso concerto di Newport, gli hanno tirato i pomodori e altre cose. Perché si aspettavano tutt'altro. Esattamente. Però era l'inizio di un grande percorso. Sì. Aveva deciso a quel tempo che era giusto fare il salto. Aveva deciso l'elettrico, l'acustico, lasciato... Chiaramente poi ha anche ripreso l'acustico, però c'era la svolta da fare e di là ha deciso quel momento che era così. Esattamente. Benissimo, adesso segniamo un altro pezzo, dai ragazzi, cosa volete suonare? Suoniamo... In scaletta cosa c'era? E poi no, sentiamo un pezzo da, dal disco. Quello, questo. Ah, ok. È tutto dal vivo, eh. Abbiamo elaborato tutto dal vivo anche questo. Ok. Vado. Vai Chiara. È una canzone un po' triste. Bene. I wish you could see those rays of this cold sun going down. I wish you could feel that wind, cold like your ghost in your town. It's going to rain outside, it's going to rain. But instead I am in front of these blind, these colored walls. I wish you could see my brown eyes. I wish every time I saw photos of you smiling. I wish that smile could be mine. It's going to rain outside, it's going to rain. But instead I am in front of these blind, these colored walls. Sorry, but I am to be. It's easy to say I'm sorry, 'cause I will leave you this way in silence. I wish you'd ask me to clean all that cold dust in your lungs. It's going to rain outside, it's going to rain. But instead I am in front of these blind, these colored walls. L'onda del rock. È stata un pezzo bellissimo, una ballad sofferta. Tu facevi un effetto un po' particolare, quasi pompavi la chitarra. Che effetto facevi? Era quello stratagemma di cui parlavamo all'inizio, sì, della trasmissione, del violoncello. Ecco. Poi non so se sì, ma era molto molto bello, molto decadente, possiamo dire così, un po' decadente. Con il volume della chitarra, sì. Senza fare... Rifammelo un secondo, dai. Sentiamo. Bello, bellissimo. E poi faceva degli effetti, dei piccoli effetti. Questi. Esatto, proprio quelli. Lascia gli intervalli di sesta. Le robe tipiche del blues. Esatto, robe tipiche del blues. Mentre il pezzo di Chiara è piuttosto sofferto, sì. Una ballata molto malinconica. però bello, mi è piaciuto particolarmente. Sì, sì, è quella dello stratagemma del violoncello, infatti anche non tante volte se uno non ha a disposizione un vero violoncello, con un po' d'orecchio si riesce a trovare dei suoni a disposizione una persona che suona il violoncello, dei suoni che possono sostituire il violoncello, insomma. Bello, io, a me è piaciuto decisamente, sicuramente anche i nostri ascoltatori, soprattutto Sergio, che è il nostro collega e ci sta ascoltando, amante anche lui di queste sonorità, sarà sicuramente soddisfatto. Bene. Salutiamo Sergio, che è in ascolto. Ciao Sergio. Ok, bello, bello, un pezzo molto interessante, decisamente una ballad proprio folk, ma un folk spettrale, posso dire questo stasera. Io ho avuto questa idea. Tu hai detto malinconico, sì, ma è molto molto interessante secondo me, bellissimo, ripeto. Bene, sono pienamente soddisfatto di questo. Fa sempre parte dell'atmosfera del sogno. Esattamente, sì. Fa parte dell'atmosfera del sogno, decisamente. Ok, a proposito di atmosfere, sentiamo un pezzo dalla scaletta che abbiamo scelto, da disco, sì. Dal vivo mi pare, abbiamo finito i pezzi da sì. Studio. Mi sembra di sì, cosa, no? Chiaro. Non mi ricordo. Che numero... Il numero 3 deve essere dal disco dal vivo. Vabbè, allora. Diciamo dopo il titolo. Diciamo dopo. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Benissimo, ricordiamo il concerto dove è stato eseguito, dove è stato registrato il pezzo, il titolo del pezzo. Vai Chiara. Sì, questa era la registrazione live del concerto dell'altro quando, del 19 febbraio di quest'anno, che poi è diventato Mixing Up the Medicine. Il pezzo era la versione live di In Silence. Perfetto. Che è nel primo EP. Nel primo EP, esattamente. Come diceva giustamente Lorenzo, non c'era la sul pezzo che abbiamo sentito adesso, dal vivo, sì, c'era. Sì. Nel pezzo che abbiamo suonato prima, non c'era. Non c'era esattamente. Il cimbe, le percussioni, esatto. Queste. Ma servono le percussioni? Qua servono. Alcuni punti sì, alcuni punti no. Un po' di rumore nel senso positivo del termine, un po' di ritmo, un po' di ritmo, no, rumore è sbagliato, un po' di ritmo, ecco, e diciamo le cose come stanno, un po' di ritmo, scandire il tempo, scandire il tempo, va benissimo, esatto. Quindi la definizione è perfetta. Ok, quindi questo abbiamo, stiamo adesso esplorando da disco, il disco dal vivo chiaramente, un'iniziativa positiva, questo concerto, che avete avuto delle sensazioni positive, cioè una emozione quando avete fatto questo disco dal vivo, o no? Sì. Sì? Sì, è sempre un po', quando uno si esibisce dal vivo è sempre un po', c'è sempre quelle emozioni, anche diciamo, se per quanto uno sia abituato. però c'è sempre un certo che si sente proprio la differenza da quando uno fa le prove e quando si esibisce davanti, sì, ad un pubblico. C'è anche la concentrazione che hai in quel momento, soprattutto di cosa stai trasmettendo. A chi che vi ascolta, quella gente, esatto, che era la presente praticamente. Anche se erano i fonici, avevate deciso di registrare tutta questa cosa qua. Però c'è sempre l'emozione, c'è sempre c'è il fattore emotivo che gioca sempre, fa sempre il suo peso, diciamo che uno magari lo può fare benissimo lì e poi quando arriva nel momento che si esibisce. Esattamente. Magari non è proprio così forte, però come agli esami, ad esempio uno studia e poi va là, fa scena muta. Può capitare. Succede un sacco di persone. Però quindi... cioè, l'emozione ci vuole un musicista, secondo me. Sì, sì. È indispensabile. Quello sta tutto là. Suonare dal vivo è quello, insomma, praticamente. Sennò sarebbe mettere su un francobollo su una lettera, non è niente. Stavo vedendo giusto qualche tempo fa un CD, un DVD dei Rolling Stones, che non mi ricordo adesso che DVD fosse. Però tra tutte le cose facevano vedere anche degli spezzoni, altri concerti dell'epoca. C'era una roba di Tina Turner, sì, giovanissima, perché era nel 68-69, e mentre cantava si metteva a piangere, a lacrime. E il pathos, l'emozione che dà. Infatti là era emozionatissima. Quindi... Un altro animale da palcoscenico, Tina Turner, sì, cosa dici? Esattamente. Proprio di Rolling, abbiamo citato i Rolling, e Jagger e Richard. Cosa ne pensi della riproposizione di Silent Main Street, che è stato riproposto l'anno scorso, è stato ristampato in una grande versione deluxe, cioè un disco che è stato giudicato all'epoca non capolavoro, poi si è capito un po' di tempo dopo che era un capolavoro assoluto. Probabilmente l'hanno voluto fare per quello, e poi magari anche con le nuove tecniche. Sì, l'hanno ripulito. Magari non erano, può essere anche un'ipotesi mia, che non fossero soddisfatti al 100% di come era stato registrato allora, e quindi hanno voluto adesso con le nuove tecniche, magari è venuto meglio, e in più c'è il discorso, come dicevi te, che è stato capito dopo. Sì, è stato capito dopo, è stato il loro doppio album, è stato registrato in Francia, e tanti motivi. Sì, poi le mie sono solo ipotesi, perché sì, sì, chiaro. Non so niente, però magari, magari è quello. Ma con la riproposizione, con la ristampa è ritornato in classifica. Sì, per cambiare. Poi, esatto, poi c'è anche il discorso magari. Sì, anche economico, siamo d'accordo. Però sai... È lavoro anche per loro, insomma. Certamente. C'è adesso c'è il ritorno di tanti dischi che sono usciti 20 anni, 30 anni, 40 anni fa, sono riproposti in chiave deluxe. Per esempio, a proposito di italiani, proprio qualche giorno fa, qualche settimana fa, è uscito Felona e Sorona, delle Orme, nella dimensione che c'era una volta. Ti ricordi Felona e Sorona? C'era il famoso album Progressive delle Orme. Poi, quando Peter Emmy dei Van der Graaf Generators, che era amico loro, ha deciso di praticamente scrivere i pezzi in inglese, di tradurre il testo in inglese, ha inciso il disco in Inghilterra. In inglese, le Orme le hanno inciso in Inghilterra. Non ha avuto lo stesso successo in Italia. E adesso, quest'anno, proprio pochi giorni fa, qualche settimana fa, è stato riproposto nella doppia versione, sia discorso italiano sia discorso inglese. Una versione deluxe molto raffinata. Non lo sapevo. Sì, è una cosa molto interessante, lo ascolterò. È molto interessante la doppia versione. Quando però i critici hanno scritto, cioè i critici più che altro gli amanti del suono, non ci sono state delle variazioni rispetto al master di una volta. Il master è ancora un po' sporco secondo loro, però il ricordo di quel momento importante è quello fondamentale. Poi un libretto, una confezione lussuosa, eccetera. Sì, eccetera. Con fotografie, aneddoti. Esatto, e altre cose che capita spesso e volentieri. Eh sì. Servono apposta le cosiddette ristampe. No? Ok, per animare il mercato. 23, 35, 34 e 47 secondi, 48. Segniamo un altro pezzo, ragazzi. Che cosa adesso? Facciamo Drive and Cry. Ok. Ok, bene. Women can drive and cry at the same time. Remember when I closed my eyes, was it wrong or right? And all the time I'm getting closer, I'm to blame, I won't grow. Secrets fade and come through eyes going nowhere. I'm tired, I'm cold. see the real between wrong and right, eluding me. Secrets fade and come through eyes I don't mind. I'm tired. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Lorenzo Petri e Chiara Willow stanno presentando il progetto Valium Doll. Una cosa, Lorenzo, io ho notato che il cimbalo lo accentuavi, lo diminuivi a seconda del momento del pezzo. Sì. È così? Sì, sì, è così, perché intanto è la parte, è l'unica parte che dà ritmo, cioè non è proprio l'unica, comunque è l'unica percussione che abbiamo. Certamente. E quindi perché non gestirla con la dinamica? Ad esempio nel ritornello mi sembra, io sono dell'opinione che il ritornello sia il cuore della canzone. Certo. Il ritornello deve in un certo senso esplodere e quindi mi dà più vigore. Lo batto più forte. Poi nella strofa un po' meno e magari nel bridge, che è quella parte di unione, cerco magari di farlo un po' crescere. Beh, insomma, è la spiegazione giusta da spiegare. I nostri ascoltatori devono sapere come si fa un live in questo momento qua, qui a Rock Wave con Lorenzo e Chiara. Abbiamo capito che il cimbalo dà la dimensione, come hai detto Chiara precedentemente, dà come hai detto la frase giusta per quanto riguarda il cimbalo? Scandisce il tempo. Scandisce il tempo, esattamente, una cosa perfetta, hai dato proprio la descrizione ideale della funzione dello strumento di stasera. Sì. Benissimo, abbiamo parlato quindi del live. Una cosa, come, se uno vuole avere materialmente i vostri dischi, come deve fare praticamente? Citiamo il vostro sito allora. Sì, il nostro sito è www.myspace.com/valiumdoll. Esattamente. E il CD There Was Something in My Drink li trovate ai concerti. E quello nuovo? Sì. Quello deve essere ancora stampato. Quello che non esiste ancora, si può scaricare solamente. Pazienza. Cioè, chiaramente quello vecchio, quell'EP si può trovare i concerti, chiaramente. Sì. Benissimo. E poi ho letto su una recensione il disegno molto bello che hai fatto te. L'illustrazione è stata fatta nel primo disco. Questo pesce praticamente. Sì, la foto del pesciolino. Il pesciolino. L'idea è stata tua questa idea della foto del pesciolino? Sì. Come ti è nata la foto del pesciolino, dell'idea? Come si è sviluppata? Doveva essere qualcosa di... Da una parte di un po' infantile, anche un po' così dolce. Esattamente, cosa da una parte. Allegra. E dall'altra questo spillo che andava a rovinare tutto. Mm. perché appunto è infilzato. Esatto, si è infilzato proprio quello, cioè, la parte infantile, però questo spillo che rovinava questo discorso di gentilezza. Questa contrapposizione tra appunto questa cosa di dolcezza che però... Cioè, la scena, la cosa dello spillo è una cosa violenta. Esattamente, di violenza praticamente. Dottor Jack e Mr. Hyde. Una violenza che forse c'è oppure no, però che comunque è mascherata da questo aspetto anche. Ho capito. Delle canzoni magari tutte, cioè, che possono essere dolci, perché è quella cosa che arriva di più. Del fatto che sono molto cose tranquille, certo, in un certo però modo. Nascondono qualcosa di sofferenza. Qualcosa di sofferenza, di appunto. Sì, ho capito. Sì, chiaramente. Ok, 23:43, un altro pezzo dal disco che abbiamo scelto dal vivo. Che traccia ti ricordi? Che traccia hai scelto, Chiara? Che avete scelto, perdono? No, beh, la facciamo. La prossima traccia, allora, adesso la mettiamo su, ok? Sì. Poi ne parliamo. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, non avevi mica sbagliato, Lorenzo? Avevi sempre paura di sbagliare? Questo giro l'ho fatto giusto. La fatica di fare il giro. Per fortuna. Tutto a posto. Dicevi del cimbro che era un po' amplificato il rumore. Sì, era... Anche qui c'era il riverbero. Pare giusto. Però fatto bravo. Non ti sei ricordato? Ti ricordavi adesso? Mentre il pezzo andava. Voi ascoltatori non potete saperlo perché il ragionamento che ha fatto Lorenzo, anche Chiara. No, Chiara non diceva niente, Lorenzo faceva tutto Lorenzo il ragionamento che praticamente si ricordava più del riverbero, del suono amplificato del cimbalo. Beh, è venuto fuori bene. No, benissimo. meglio. Era molto buono così. E, sì, esattamente. Questo pezzo, ripetiamo il pezzo, come si chiamava? Intitolava? Guilt. Perfetto. Era l'ultima tra virgolette l'ultima traccia, la penultima in realtà dell'EP. L'EP, esattamente. E poi, la versione dal vivo? Drunk version di The Line of Nothing, che alla fine doveva essere una traccia fantasma. Ah, ho capito, invece? Invece no, cioè, è diventata una versione ufficiale. Esatto. Infatti ci sono tutte e due. Esattamente. La versione c'è che avete fatto. Un sacco di spazio tra Guilt e l'ultima traccia. Cioè, aveva la versione che avete fatto dal vivo, del pezzo dell'EP. Cosa aveva di più? Aveva un riverbero, cioè un riverbero sul cembalo accentuato? Proprio il cembalo che nel primo disco non c'era. Esattamente. E poi? Era riverberato. Era più mosso, più accentuato. No, vabbè, è riverberato in tutto il disco. Sì, sì. Ma l'idea è stata un'idea di chi? Vostra immediata di quel momento oppure? Di riverbero? No, penso che l'abbiano aggiunto loro dopo. A nostra insaputa. Non è vero questo. Sapevamo che c'era il riverbero. Sì, che bello, lasciamolo, che fa effetto. L'avevamo detto noi. È vero, Lorenzo, è che non ti ricordi. Non si ricordava. E una cosa vi devo chiedere: la scaletta del disco dal vivo l'avete scelta proprio a quel momento là per il concerto? Sì, la scaletta del concerto. Sì, esatto, la scaletta del concerto l'avete scelta in quel momento là? Oppure era stata predisposta? No, le scegliamo a casa. Le scegliamo prima del concerto. No, ti spiego, forse mi sono spiegato bene. La scaletta la scegliete prima o la scegliete proprio là in quel momento? Prima di andare. Così le proviamo già con quella scaletta lì e poi... Non succede mai il contrario? No. Ma no. No. Qualche volta sarà successo che ci eravamo dimenticati un pezzo e l'abbiamo fatto, o abbiamo fatto il bis. Però di solito è molto raro. Bene o male, sì. Ma mi pare che facciamo sempre la scaletta di solito. Sì, quindi la scaletta già... le volte magari che si improvvisa o che si fa la scaletta è già preordinata praticamente. Sì. Una cosa, visto che ci siamo e abbiamo quasi solo 10 minuti alla fine, possiamo ricordare se avete qualche altro concerto da fare nuovamente adesso, se vi ricordate? No? Per ora no. Non avete nessuna data. Presunta sì, forse fra qualche mese. Sì, sì. Beh, possiamo Sì, ma capita che ci chiamano a suonare la settimana dopo, quindi al limite suoniamo abbastanza regolarmente, senza avere già, non avendo l'etichetta che ti organizza già tutto, andiamo a chiamata, però arrivano... Al limite si può trovare nel vostro sito se per caso avete qualche concerto fra qualche mese, cioè sì, infatti, lo mettete dentro, ogni, insomma. Per ogni aggiornamento si basta guardare il MySpace. Perfetto. Anche su Facebook c'è sempre qualche aggiornamento da parte vostra. Benissimo. Allora abbiamo circa 10 minuti, abbiamo tempo per due pezzi. Adesso ne facciamo subito uno. Che cos'è? Lady Bird. Perfetto. Aspetta. Vai. A little seems out of my hand, and then it's time my right hand. Pressure up and feeling down, shut me out of here to ground. I know you turn to me when you allow us to do, and when you leave me for another time, think about my cool smile, I won't cry, I won't cry. Tired of seeing me, can't find left inside. You join inside of me, can feel lots my feeling. You bet I'm tired of fear. You better run me. You better run me. I can't remember all the wine I drank when I was deadly high. And when I try to figure it out, my dad went round and thoughts run out. You know it turned to me when you allow us to do, and when you leave me for another time, think about my growing smile, I won't cry. Sometimes there is no time. You're tired of seeing me, can't find the left inside. You're drawn inside of me. You better lost my feeling. You bet I'm tired of fear. You better run me. You better run me. Sometimes there is no time. You're tired of seeing me. Can't find the left inside. You drawn inside of me. You bet I lost my feelings. You bet I'm tired of fear. You better run me. You better run me. I won't cry. I won't cry. Radio Veneto. Radio Veneto. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Posso dire che c'era una struttura rock quasi punk in alcuni momenti in questo pezzo, siete d'accordo? Ma sul ritornello. Sul ritornello, assolutamente sul ritornello. È un po' accentuato, mi pare giusto che sia così. Il folk e qualcosa d'altro, è arrivato anche il punk. Sempre sul ritornello, assolutamente sul ritornello. Chissà che nel disco questa canzone non venga fatta con no? Un punk. E perché no? Perché è qualcosa di negativo, assolutamente. Assolutamente. Lo facevi te. Abbiamo anche la canzone punk. Perché no? Cioè, mi sembrava che Chiara punk blues. Accentuasse un po' il ritmo e tu chiaramente la seguivi e davi quella dimensione rock and roll accentuato e poi ritornava sulla stessa linea di inizio, però c'era qualche tendenza e cosa positiva. Sì. Abbiamo finito ragazze, sono le 55, abbiamo quasi solo 5 minuti scarsi. Non so, io devo ringraziare questo progetto di Chiara Villo e Lorenzo Petti, questo progetto che si chiama Balloon Doll, che consta di due dischi, il primo There Was Something in My Drink del 2008 e l'ultimo Mixing Up the Magic, è uscito qualche mese fa, in marzo. Esatto, in marzo di quest'anno, e un presunto nuovo disco che si vedrà. Non si sa mai, vero? C'è un mistero. C'è un mistero, sotto. Grazie a Michele Tosone che era in regia. Adesso terminiamo, io vi chiedo una cosa. Adesso fate l'ultimo pezzo, però dopo dell'ultimo pezzo ne è suonato un altro che è la riproposta di quel pezzo col violino, con la viola che avete fatto. Ah, okay. Che a me è piaciuto moltissimo. Brown Eyes. Esattamente, che mi è piaciuto moltissimo. Grazie, buonanotte a tutti. Ci sentiamo domani con Agostino Spolavore con 1, 2, 3 prova. Avremo i finalisti del nostro concorso. Buonanotte a tutti e grazie. Grazie, buonanotte. And this feeling that's inside my head, it keeps me awake on the floor last night. Well, that's made me down. When revealing what's my fault, I cried. A loud and fast came to me, and I'm not lying. It's not the nature of fresh water for my pain when I feel low. Incommensurable love on never word. I'm inside your greeting in blue eyes, and I found I'm guilty because you didn't try. It's not too natural. A warm blanket sadly covers me, and I feel my nerves deceive me all night. You keep my safety. Fresh water for my pain when I feel low. incommensurable love I never owned. And beside me a warm light near my door. Incommensurable love I never owned. It's going to rain, but instead I am in front of this blind, discolored, blind, discolored wall. I wish you could see my brown eyes. I wish every time I saw photos of you smiling. I wish that smile could be mine. It's going to rain outside. It's going to rain. But instead I am in front of this blind, discolored, blind, discolored wall. I'm sorry for being sorry, but I am to be. It's easy to say sorry, cause I believe you, it's way in silence. I wish you'd ask me to clean all that gold dust in your lungs. It's going to rain outside, it's going to rain. But instead I am in front of this blind, discolored.